Friuli nel mondo, 82esima trasmissione dedicata agli emigrati. Le nostre villotte. Queste villotte, come le antiche, come le anonime sgorgate dall'anima della nostra gente, sono la perenne testimonianza di una tradizione che non può morire. Sono l'espressione più pura della voce dei nostri ridenti borghi e delle nostre serene vallate, sono la semplice poesia del Friuli espressa in canto. Ore di Gnò, per Aulis di Barbacei, musiche di Mario Macchi. Plan planin lieve la lune, e la mont si strenzi in tor, i paesuz su pevalade si cisichin fra di lor. Din dan dan c'è armonie, dan din dan da plef la sot, din don dan di vile in vile, dan din dan ore di Gnò. Poi il gei l'ultime vore, e si fa il senta cros, cui frutins lieve preiere par lor pari, pal sospos. Din don dan fas gli schiampanis, dan din dan ripet la mon, din don dan pas cum voaitis e parcheia tor pal mont. La Leile, vilote di Mario Macchi, super aulis di Ercole Carletti. Opla Lele, una chiantose e volin par voi intonà, opla Lelile, opla là, sei vilote murbinose che da su dal curgaios o vaiote passionose sospirade a fil di vos. Il chiantà sol nus console dagli strusis, dai pinsirs, e nu spae che store sole dal marum di duchi dis. Opla lele, il timpal svole, e no zovestro legà. Opla lelile, opla la. Opla lele, ne ciantose, e volim par voi tonò. Opla lelile, opla lelile, opla lelile, opla la. Sei pilote morbinose, che da su dal corgaio. Opla lelile, opla lelile, opla lelile. in patrone e non dove strolegò. O cavalier, o cavalier, o cavalier, o cavalier. L'Agnul dal Chistiel. Poesie di Ciro Angeli, musicate da Ottavio Paroni. Una giornata al plouf, un'altra al tornabiel, ma l'agnul dal chistiel lassù plui non si muove. Al resta cu la man sempre a mostrà che il puest, al fisse i voi lontan, laiù viars di Trieste. Baste un fil di lune. Il mestre Ottavio Paroni ha scritto la musica e la poetessa Novella Cantarutti li speraulis. A mi baste un fil di lune e la buere jemfri poi tal seren cal si semene par che ridin i tiei voi. Ma lontan sore la crete il cil viole al si escurì e il gnotiant al si distude, talto cur indurmidit. Così a disin lis rosutis, vilote di Beppo Toso e per aulis di Anute Fabris. Tun vasù sul mio scrittori all'odore un amorin e al mi dis, su su coraggio, io capis il tuo destin. E a planchin lis altris rosis, paltinel di cai di là, non sta di che tu sei sole, che il tuo cur si sint glazà. Tutti i flor scula bellezze han un'anime che sint e che va come chiarezze d'onde che il cal stava int. Così a disin lis rosutis che dal vas mi stan chialant. E io pensi alla me vite, un sospir e po in devant. Tumba su, sugli ospitori allodò, reuna morì, in cagni di su, su coraggio, io capis il tuo destino. Abbiamo voluto oggi dedicare a voi, cari amici in ascolto, queste villotte, ritmate sul tema consueto della nostalgia e dell'amore, perché richiamino il vostro animo alla serenità, alle sane, alle semplici e alle buone cose della vostra terra friulana. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo. 82esima trasmissione dedicata agli emigrati a cura di Ermete Pelizzari. Dizione di Ottavio Valerio. Coro di San Lorenzo di Sedeliano, diretto da Leandro Plenizio.